riflessione sui simboli, in particolare i simboli Aleph che utilizziamo noi. Definizione possibile: sono dei riduttori di complessità. Riduttori di complessità che danno le informazioni essenziali senza intasare lo schermo del computer mentale. Qui davanti abbiamo un computer e se noi vogliamo utilizzare bene lo schermo non possiamo riempirlo di cose che sono non utili o non essenziali. Il tema dell'essenzialità ha a che fare in generale con la comunicazione. Ieri ero a teatro, alle prove, con Meshulam e ho imparato proprio bene dalla lezione a cui ho assistito, perché è una scuola di recitazione, come quando noi pronunciamo una frase ci sono delle parole che vanno in qualche modo valorizzate attraverso l'uso vocale, quindi con gli aspetti musicali della parola. Mentre altre parole della stessa frase in qualche modo devono risultare un po' più sullo sfondo. Quindi vale anche qui il principio delle arti visive, figura, sfondo, e in musica lo stesso. E lo stesso nel parlare. Quindi c'è da chiedersi qual è la parola veramente importante. E ieri nella conversazione a cui ho assistito, la parola importante era, per esempio, repertorio. Tutto il resto potevano essere parole sostituibili, ma il termine repertorio, quello no. E allora Massimo ha fatto notare come se l'attore si concentra su quella parola, gli dà valore, allora tutta la frase diventa comunicativa. Che cosa significa? Che il nostro cervello focalizza la sua attenzione sulla parola fondamentale che diventa la figura, tutto il resto diventa lo sfondo. La stessa cosa fanno i simboli. I simboli sono delle icone che hanno come compito quello di mettere in primo piano ciò che è veramente essenziale. E sullo sfondo, addirittura nello sfondo bianco, ciò che non è necessario, che è superfluo. E mi richiama il direttore d'orchestra. I direttori d'orchestra più bravi sono quelli che fanno i gesti più efficaci, cioè più semplici. Tutto quello che non è strettamente utile è dannoso. Un gesto in più non è come nel diritto quod abundat non vitiat. No, qui un gesto in più è un rumore nella comunicazione che la rende quindi meno efficace.